Bufala in tavola di Nicoletta Carbone. Senta, mio caro professor Tapascione, allora mi racconti un po' come è nato questo libro, Diete Running. Insomma, una bella fetta di caprese e mettiamo tutti d'accordo, dottoressa Fulgione. Assolutamente, però non lo ripetiamo troppo, perché se ci sentono i nutrizionisti mi sa che un po' ci bacchettano. Diciamo, a parte la parentesi nello spazio, dove comunque ero il cuoco dell'equipaggio, perché no, veramente? Anche se il cibo, sì, anche se il cibo è già tutto preparato, diciamo, una battuta è che siccome gli italiani qui cucinano meglio, io ero, diciamo così, il cuoco del gruppo, ma in realtà dovevo solo aggiungere l'acqua e metterla a scaldare, quindi non però, c'è molto. Vede, però bisogna molto farlo bene, ad arte. Diario sonoro delle nostre tavolate domenicali. Buona domenica, eccoci di nuovo insieme. Ma oggi, amici, abbiamo ricevuto un invito a pranzo. Niente po' di meno che dall'Università di Milano Bicocca. In linea con noi abbiamo il padrone di casa, il professor Massimo Labra, che è direttore del centro Best for Food e docente all'Università di Milano Bicocca. Professore, buongiorno. Buongiorno a tutti, buona domenica. Buona domenica, ma noi accettiamo molto volentieri il vostro invito, perché, professore, mi sembra che, insomma, di giocare un po' in casa, siamo un po' quasi parenti. Voi avete organizzato un corso, di cui parleremo tra poco, si intitola Alimentazione per la prevenzione del benessere in epoca Covid-19, e devo dire che il vostro corso è perfettamente in linea con la filosofia della bufala in tavola, perché parlate di prevenzione, parlate di benessere, parlate di sicurezza alimentare, insomma, prof, siamo praticamente parenti, cugini, quasi fratelli. Ci racconti un pochino su che cosa puntate? Beh, allora, innanzitutto questo corso vuole davvero essere una condivisione, quindi l'idea di mettere un po' le nostre esperienze a disposizione di tutti. Sì. È nato un po' perché in questo periodo c'era forse qualche confusione, c'era anche un po' un bisogno di mettere chiarezza, e si va da consigli, suggerimenti, ma anche modi di vedere l'alimentazione che sono un po' cambiati nel tempo, e soprattutto con Covid-19, insomma, hanno avuto delle drastiche variazioni, fino a fornire ai cittadini un po' di curiosità che vanno da che cosa è successo, come è cambiato l'accesso al cibo delle diverse categorie, quali sono i rischi futuri, quali sono le sicurezze che abbiamo. Insomma, un po' di pillole perché possono essere utili per vivere meglio. E infatti è proprio un corso, possiamo dire, in pillole. Ma professore, come lei sottolineava, durante la pandemia si è proprio affermata con forza la centralità dell'alimentazione e dello stile di vita, che sono temi su cui la bufala in tavola lavora da anni, e proprio la centralità del nostro stile alimentare, perché quello che mangiamo non solo ci nutre, ma nutre anche la nostra salute e ci aiuta anche a prevenire alcune malattie ed eventuali complicazioni. Su questo aspetto voi lavorate molto nel vostro corso, professor Labra. Sì, direi assolutamente, anche perché noi sappiamo che, insomma, ormai l'alimentazione diventa il primo fattore di prevenzione. Noi abbiamo una società che tanto soffre di problemi vari legati all'invecchiamento, eccetera, e l'alimentazione ha un ruolo davvero preponderante in questo. E allora, professor Labra, dato che abbiamo parlato di pillole, sono pillole tra l'altro di circa 10 minuti ciascuna, quelle che avete organizzato, che sono tra l'altro aperte a tutti, quali pillole può suggerire ai nostri amici che si stanno accomodando a questa tavolata che per l'occasione si è trasferita proprio all'università? Guardi, non è facile per me dire quali, perché ovviamente sono tutti colleghi e amici che ci hanno messo molta passione. A me piacciono, io sono un biologo, però mi piacciono tantissimo le cose di sociologia, quindi non so, capire l'accesso al cibo come è cambiato, come i nostri giovani, non so. Lei si è resa conto che i ragazzi sono messi a fare le ricette della nonna, e quindi vuol dire che tutta questa cultura non l'abbiamo persa, ce l'abbiamo ancora nelle nostre case. Insomma, a me questa cosa veramente mi fa molto piacere, quindi donne, giovani, anziani, consumi. Poi ci sono delle curiosità, non so, su che cosa si può fare degli scarti, quegli scarti che poi sono stati tanto reclamati, ma che poi durante la pandemia si sono un po' ridotti, perché la gente ha imparato a ricucinare, ecco. Quindi davvero ce ne sono tante di pillole carine, ognuno può sceglierle, ecco. Ma lei che cosa sceglie per noi? Perché lei è il padrone di casa, ci ha invitato, come ci aiuta a iniziare questo nostro pranzo domenicale? Intanto che aspettiamo le portate forti, che cosa sgranocchiamo insieme? Se dobbiamo dirla tutta, io mi preoccupo un po' di questa società, e quindi vi dico, le pillole sull'alimentazione possono dare davvero tanti suggerimenti, raccontare un po' di piatti forti da mettere in tavola per prevenire rischi futuri. Ad esempio, professor Labbra? Ma per esempio, noi abbiamo lavorato molto sugli over 65, ancora prima di Covid, ecco. E quindi questo tema di come mangiano le persone, diciamo, meno giovani, che hanno dei problemi di infiammazione cronica e anche di immunosenescenza, e che possono quindi avere qualche problema, sono un elemento chiave delle nostre ricerche. E allora adesso noi ci fermiamo e lo ripetiamo spesso alla bufala in tavola, che a tavola non si invecchia, e voi lo dimostrate, ricerche alla mano, ma professore, lei ci darà anche qualche suggerimento, qualche indicazione per gli over 65, ma anche se giochiamo un pochino d'anticipo, male non ci fa. Professore, resti con noi, a tra poco. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta La bufala in tavola. Amici belli e cari, siamo molto gettonati. Oggi abbiamo ricevuto un invito addirittura da un'università. Un'università con cui siamo quasi parenti. Un gemellaggio, possiamo così definirlo così, con un corso ideato dal professor Massimo Labbra, che è in linea con noi, il nostro padrone di casa. Buongiorno professore, ribuongiorno. Eccoci qua, che è direttore del centro Best for Food. Ha ideato questo progetto, Alimentazione per la prevenzione e il benessere in epoca Covid-19, di cui stiamo amabilmente chiacchierando, un progetto che, come dice il titolo, poi siamo alla bufala in tavola, naturalmente mette l'alimentazione al centro. Alimentazione per stare bene, ma anche alimentazione per prevenire eventuali malattie, ma anche, professore, lei ha detto, ci sono delle indicazioni, dei consigli che arrivano proprio da degli studi precisi su quali sono i prodotti, gli alimenti da inserire nella nostra dieta, soprattutto per invecchiare bene. Lei ha parlato degli over 65, ma io le ho detto che non è mai troppo tardi per iniziare a mangiare bene e a portare a tavola tutto quello che ci serve. Sono d'accordissimo con questa visione. Beh, allora diciamo che noi abbiamo lavorato tanto con i nostri colleghi dell'Università di Pavia, questo corso l'abbiamo fatto insieme. Loro, per esempio, si sono occupati tantissimo di diabete, quindi malattie metaboliche. È chiaro che è una comorbidità rilevante in Covid, quindi che ne so, io se mi invito a pranzo direi che riduciamo gli zuccheri semplici, che oltre ad essere infiammatori ovviamente sono anche un fenomeno, un fattore di rischio per chi ha un problema diabetico. Direi che per le signore che amano un po' di più cibi zuccheri, mangiano un po' meno proteine, io abbonderei di legumi. Per i signori che invece al contrario amano molto di più i carboidrati, direi che un po' di pesce, omega 3, vitamine del gruppo B, molto rilevanti per questa pandemia, per la prevenzione. Quindi vi faccio fare un po' scelte di menù diversi per persone diverse, ma del resto un po' la nutrizione deve essere come un vestito, no? Ognuno se la deve sentire addosso, un po' per gusti, un po' per imparare a capire che ogni metabolismo è diverso, non c'è una ricetta per tutti. Però lei ha già profilato, quindi è veramente un padrone di casa molto attento, perché non ha fatto un menù così va bene per tutti, no, ha cercato di selezionare i piatti, le ricette in base all'età e anche alle caratteristiche dei suoi ospiti. So che parlate anche di fake news, qualche fake news carina che vuole così smascherare con noi? Ma guardi, allora non vorrei cadere nella banalità. Diciamo che tante volte voi avete detto che non basta mangiare un pomodoro rosso per avere una certa quantità di antiossidanti. Vede però... che allora siamo parenti, oggi abbiamo detto così. Però lei ci segue, eh? Ecco, io vi seguo. L'ho smascherata e siamo onorati. Sì, quindi lei mi diceva del pomodoro rosso, questo è... cioè non basta un pomodoro, ma... Professore, diciamo cibi particolarmente ricchi di antiossidanti, per esempio un po' sottovalutati sono gli omega 3. Uno dice ma ha mangiato il pesce così, però guardate che anche nei vari semi oleosi, i semi di chia, di lino, le noci, la frutta secca hanno un ruolo davvero importante per fornirci quella parte di omega 3 che magari non sono proprio gli EPA, DHA del pesce azzurro, ma che fanno tanto bene al nostro sistema immunitario. Quindi io direi che alla fine faccio un bel dolce magari con questi oli e un po' di frutta secca. Oh, perfetto, questo ci piace. Professore, prima di salutarci, ha per noi un altro piattino, qualche aggiunto, una spolveriata di una spezia particolare magari, tanto guardi, per aggiungere colore e brio ai nostri piatti e devo dire anche molta salute? Allora, vi dico un segreto, però questo proprio non è ancora... Teniamolo per noi, dai. Stiamo lavorando un po' su alcune radici, in particolare la liquirizia nostra calabrese, perché sembra avere dei ruoli molto importanti, interessanti, nel dire il virus qui dentro tu non entri. Veramente? Ora, ce n'è ancora di lavoro da fare, sì. La ricerca è sempre fatica, però... come dire, ci piace. Però ci piace e a noi piacerà molto quando lei tornerà a trovarci. Ma volentieri. È per te che sono verdi gli alberi e rosa e fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio. È per te tutta questa città. È per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola, è per te il 13 dicembre, è per te la campanella a scuola, è per te ogni cosa. È per te, c'è. Per noi e per loro, loro intesi anche i nostri amici, i nostri coinquilini, funghi, virus, batteri che formano il nostro microbiota, un super organo capace, grazie ai suoi stretti legami col sistema immunitario e processi metabolici, di condizionare fortemente la nostra salute. Ne abbiamo parlato tante volte di microbiota alla bufala in tavola, oggi torniamo a farlo perché è uscito un libro che ci piace molto, si intitola I nostri primi 1000 giorni. Dalla gravidanza allo svezzamento, l'alimentazione per un microbiota sano di mamma e bambino. E allora abbiamo invitato le due autrici che sono già in linea con noi. Benedetta Raspini, buongiorno, biologa. Buongiorno. Buongiorno. Biologa. Buongiorno a tutti. Biologa con un master in nutrizione clinica, specializzata in scienze dell'alimentazione. E saluto Maria Teresa Truncellito, collega, giornalista, esperta di salute. Maria Teresa, ciao. Ciao Nicoletta e grazie per averci invitato e buongiorno a tutti. Buongiorno anche a te, un libro a quattro mani, dottoressa Raspini, il microbiota è diventato un po' la star negli ultimi anni, i tempi sono lontani in cui, come lei scrive nella sua introduzione, veniva considerato solo in caso di disturbi intestinali e si chiamava flora batterica. Io per prima, lo ammetto, fino a pochi anni fa, fino a che non ho iniziato poi le mie ricerche sul microbiota, conoscevo ben poco di questo macromondo, no? E tutti lo conoscevamo come solo come flora batterica. In realtà è veramente un macromondo composto da tantissimi microorganismi che sono proprio una componente fondamentale di noi e sono proprio coinvolte anche nella maggior parte delle malattie che a oggi ci colpiscono di più, purtroppo, come le patologie del cuore, malattie metaboliche, l'obesità, il diabete. La cosa che mi ha stupito forse di più, andando a approfondire un po' queste ricerche, è quanti microorganismi alla fine ci compongono, perché sono parte di noi, ma per metà di noi, addirittura in un rapporto di 1-1, quindi metà cellule umane e metà batteri, che è tantissimo effettivamente. Assolutamente, per questo io dico, dobbiamo imparare a conoscere i loro gusti, a tenerceli buoni, perché loro fanno la differenza, assolutamente. Ma vorrei sentire anche la mia amica Maria Teresa, perché anche tu dal tuo osservatorio personale avrai visto, anche scritto del microbiota, dei risultati, delle ricerche, ma scrivendo il libro con la dottoressa Raspini, che cosa hai imparato di nuovo, in che cosa ti sei imbattuta, che cosa ti ha stupito? Ma allora, intanto il fatto che dal 2001, cioè quando si è cominciato a parlare di microbiota, sono stati pubblicati oltre 15.000 articoli scientifici sul tema, questo fa capire quanto... Avete dovuto lavorare anche. Vabbè, non è che li abbiamo consultati tutti i 15.000, comunque insomma sì, c'è tantissima letteratura che testimonia un grandissimo interesse. A me hanno colpito soprattutto gli aspetti meno scontati, cioè noi lo colleghiamo con l'apparato gastrointestinale, con la digestione, l'alimentazione, ma quello che mi ha colpito molto è il fatto che il microbiota potrebbe centrare con i problemi per esempio della fertilità, perché possono causare delle infiammazioni a livello vaginale che in qualche modo possono ostacolare appunto il desiderio di diventare genitori, il fatto che il microbiota centri anche nelle malattie neurologiche come la depressione, certo, l'autismo, l'Alzheimer, insomma c'è veramente tantissimo, molto al di là di quello che immaginavamo noi, insomma molto al di là. Dottoressa Raspini, in modo particolare voi in questo libro vi siete focalizzati su un periodo preciso, i famosi, ormai divenuti famosi e cruciali mille giorni. Partiamo da una... Ci aiuti a capire di che periodo stiamo parlando prima di fare la pausa e ritornare di nuovo insieme. Allora, innanzitutto, infatti, quanti sono mille giorni? Perché non è scontato. Mille giorni sono quel periodo che va dal concepimento fino ai primi 2 anni di vita più o meno del bambino. Quindi è un bel periodo, è molto lungo, è proprio una finestra temporale importantissima, perché in questi giorni, se ci pensiamo un attimo, sono proprio quei giorni dove l'organismo, dove i tessuti, gli organi si stanno sviluppando, devono crescere, quindi sono veramente molto sensibili a tutta una serie di stimoli esterni che possono essere positivi e negativi. E alcuni di questi, diciamo, stimoli esterni sono rappresentati dalla dieta della mamma, perché ovviamente quello che mangia la mamma poi arriverà al bambino, certo, durante 9 mesi di gravidanza. Assolutamente. Anche poi con il latte e via dicendo. Allora, 2 minuti, poco più, poco meno, per parlare di mille giorni. A tra poco. La bufala in tavola. Veloci veloci, siamo tornati per parlare di microbiota mon amour. È fondamentale per la nostra salute in tutte le fasi della nostra vita, in modo particolare nei più cruciali e importanti mille giorni, di cui stiamo parlando prendendo spunto da un libro appena pubblicato con Benedetta Raspini e Maria Teresa Truncellito. Nel vostro libro, care amiche, c'è un paragrafo dedicato ai vero e falso. Andiamo un po' a leggerli insieme? Siete pronti? Vi metto subito a lavorare. Il gusto del latte è influenzato dagli alimenti consumati dalla mamma. Vero o falso? In effetti le scelte alimentari della mamma possono un po' modificare il sapore del latte. Questo però, attenzione, è un meccanismo intelligente che permette al neonato, al bambino appena nato, di provare quelli che sono i sapori della cucina di casa, che passano ovviamente attraverso il latte. In realtà dovrebbero essere poi dei sapori già conosciuti, perché il bambino assaggia già il cibo che la mamma mangia in gravidanza e che passa attraverso il liquido amniotico. La birra aumenta la produzione di latte. Vero o falso? Ahimè, no. La birra non ha nessun ruolo nel favorire la produzione del latte della mamma, al contrario di quanto ancora molti credono. Anzi, non solo è inutile, ma anche dannosa, intanto perché l'alcol può passare nel latte e quindi per il bebè non va bene, ma lo può anche rendere amaro e quindi sgradito. Caffè, sì, ma con moderazione. Vero o falso? Il caffè invece sì, il caffè se ci piace possiamo non rinunciarci del tutto. Fino a un paio di tazzine si può arrivare, ricordando però che la caffeina c'è anche nelle bibite gassate, nelle bevande energetiche, nel tè, e quindi attenzione, perché se ne consumiamo troppa rischiamo di far dormire male il bambino, che diventa irritabile e dormiamo male anche noi. Le coliche del bambino sono dovute al consumo di latte, latticini e legumi della mamma. Vero o falso? Falso. Le coliche dei bambini, dei neonati, sono fisiologiche, quindi sono normalissime e sono date dal fatto che l'intestino è ancora immaturo. Dopo già i primi 3 mesi, quando il bambino inizia a crescere, in realtà il disturbo inizia piano piano a scomparire. Bene, adesso che tutto sembra più chiaro, ci portate a tavola. Che cosa avete preparato per noi, anzi per lui, per il nostro microbiota? Parto dalla dottoressa Raspini, per poi coinvolgere naturalmente anche Maria Teresa Truncellito. Nel libro ci sono tante ricette, naturalmente tutte pensate, calibrate per soddisfare questa sorta di super organo. Dottoressa Raspini, possiamo chiamarlo così? Ma assolutamente sì, direi di sì. Allora, io oggi vi propongo un piatto unico che ritroverete anche nel libro. È un piatto completo composto da un cereale, che può essere l'orzo, con un legume come ad esempio i ceci, e una bella caponata di verdure di stagione. E ci aggiungiamo anche delle mandorle magari tostate. In questo modo abbiamo un piatto completo, ricco di vitamine e minerali, quindi acido folico, vitamina C, potassio e gli acidi grassi insaturi che vengono dalla frutta secca. E ovviamente poi i ceci, che sono un'ottima fonte di proteine vegetali, anche di calcio, che è importantissimo anche per la mamma in gravidanza, e di fosforo. Maria Teresa, vuoi aggiungere una chicca, qualcosa? Ma allora, a me è piaciuta tantissimo la ricetta delle barrette ai cereali con gocce di cioccolato fondente. E qua viene fuori, perché allora, vedi, perché tu sei golosa come me. Oltre che un'esperta ballerina, ma su quello avremo occasione di parlare in un'altra occasione. Certamente, perché appunto no, per dimostrare che insomma non è che dobbiamo dargli solo fibra, verdura e brodini a questo microbiota, insomma è goloso anche il microbiota, e opportunamente, insomma con le scelte opportune, possiamo preparare anche dei buoni dolci in casa e approfittare anche soddisfare anche la nostra golosità. A proposito del movimento, vorrei dire un'ultima cosa: che al microbiota piace anche il movimento, e quindi piace anche ballare, perché l'attività fisica favorisce la biodiversità, cioè la formazione di tante specie nel nostro intestino, e soprattutto di quelle amiche, che hanno effetti positivi nell'asse intestino-cervello. Quindi il movimento rende felice il microbiota e rende felice anche noi, il movimento che ci piace. E quindi a suon di musica, secondo me, il microbiota è ancora più felice. Grazie alla dottoressa Raspini e Maria Teresa Truncellito per essere state con noi. Buona giornata. Grazie a voi. Buona domenica. Qui il nostro amico della domenica, che torna a trovarci, il dottor Giorgio Donegani, tecnologo alimentare, esperto in nutrizione. Dottor Donegani, buongiorno. Buongiorno. Ho scelto una canzone per introdurre il tema di cui ci occupiamo oggi. Sì, sì, è una canzone azzeccatissima, per il braccio, il bicchiere, no? Perché? È proprio indovinata per l'inizio dell'estate. Perché noi dobbiamo sempre, lo facciamo sempre, raccomandare alle amiche, agli amici che ci stanno ascoltando, non solo perché inizia l'estate, ma sempre, che è opportuno idratarci, e possiamo farlo naturalmente bevendo, ma anche mangiando. Dottor Donegani. Eh sì, è fondamentale proprio. A volte diamo tanta attenzione a quello che portiamo in tavola nel piatto e poco a quello che invece è l'elemento vitale per eccellenza, l'acqua. possiamo introdurne appunto bevendo così, ma per mantenere il bilancio idrico, che è una condizione di benessere fondamentale, cioè pareggiare con quella che introduciamo, l'acqua che perdiamo ogni giorno, anche gli alimenti ci danno una mano, soprattutto l'orto. Nell'orto possiamo trovare cose dissetantissime, penso ai cetrioli, penso alle zucchine, ma penso anche per esempio all'anguria, che è veramente o anche il melone, un bere tre fette di melone sono due bicchieri d'acqua, ecco, per dare un esempio. Dottor Donegani, a proposito di acqua del rubinetto, come dico io, a millimetro zero del sindaco in bottiglia, l'importante è che ci idratiamo, e il consiglio che voi esperti date è di non aspettare lo stimolo della sete. Questa è un'indicazione che vale soprattutto per le persone anziane, che perdono un po' questo segnale, e anche per i bambini, che spesso si dimenticano di bere. Certo, è molto vero questo. La sete va prevenuta, non va soddisfatta, perché è già un campanello d'allarme che indica un segno di sofferenza dell'organismo. Pensiamo che già perdere un 2% del proprio peso per disidratazione comporta nervosismo, ma soprattutto debolezza, fatica, un senso di fatica, e purtroppo i bambini e gli anziani non hanno un centro della sete che funziona perfettamente, quindi magari non si accorgono. Allora il consiglio è di bere periodicamente, ovviamente se proprio non se ne ha voglia niente, ma proporre anche ai bambini o alle persone anziane un pochino da bere ogni tanto è la cosa migliore. Dottor Donegani, bottiglietta o borraccetta, come trasportiamo l'acqua che dobbiamo, abbiamo capito, avere sempre a portata di mano, proprio per evitare di sentire quello stimolo della sete che è già un campanello d'allarme? Sì, ecco, direi bottiglietta o borraccetta, ma mai bottiglietta come borraccetta, nel senso che le bottigliette, che molti dicono, ma io perché devo comprarmi la borraccia se già ho la bottiglietta e la posso riutilizzare? Il PET di cui sono fatte non è pensato per un riutilizzo, intendiamoci, una volta si può fare, ma un riutilizzo frequente comporta la cessione di particelle. Allora sicuramente borraccia, che posso poi riempire anche con l'acqua del rubinetto. Certo. E tra le borracce c'è una scelta infinita. Ecco. Ma ecco, a proposito di borracce, è vero che quelle dell'alluminio sono da evitare? E poi un'altra domanda, come si puliscono queste borraccette? Ecco, brava, hai fatto proprio due domande molto legate, perché sono... Quelle d'alluminio non è vero che sono da evitare, perché l'idea è che l'alluminio possa cedere delle particelle al contenuto, ma nel caso dell'acqua questo non succede perché l'acqua è neutra sostanzialmente, e poi internamente comunque sono protette con del materiale specifico per essere a contatto con l'acqua e non rilasciare proprio nulla. La cosa che dicevi tu è veramente importante è la pulizia delle borracce. Perché, e qui nella scelta delle borracce già pensiamo un attimo per esempio anche all'imboccatura, al collo della borraccia, in modo da non ritrovarci con borracce che hanno una apertura così piccola che lo scovolino non riesce neanche a entrarci, perché la cosa migliore è usare quello scovolino di plastica con tutte quelle spazzoline in fondo, no? Sì. Usarlo fregando molto bene. E si può anche utilizzare ovviamente del detersivo per piatti, avendo cura di risciacquare poi molto bene. L'importante però è non lasciare mai del liquido nella borraccia. Bravo, perché poi viene quella specie di puzzetta di... Sì, no? Di freschino. Sì, e si formano proprio anche delle alghette sulla superficie, che noi non vediamo se la borraccia è appunto d'alluminio e viene verniciata esternamente o comunque non è trasparente. No, adesso lei mi fa pensare alle alghette dentro la borraccetta, non è che mi aiuta, dottor Donegani? Ma non vengono se si puliscono ogni giorno. Ecco. Pulite bene, e poi l'altra cosa, la bevanda migliore che abbiamo è l'acqua. Sì. Usiamo le borracce per metterci solo acqua. Se già ci mettiamo succhi di frutta, spremute o che... non sono pensate per questo le borracce, sappiamo che ci sono sali, ci sono acidi che possono intaccare più facilmente dei materiali, per cui beviamoci l'acqua. Vede, che bel suggerimento. Borraccia solo per l'acqua, si lava ogni giorno con lo grande scovolino, lavo bene con un pochino di detersivo, poi la capovolgo e la riempio, no? Per fare uscire tutto? Sì. Perfetto, e poi la riempio. Perfetto. Ho capito? Allora borraccetta. Ah, perfetto, perfetto, perfetto. Grazie, dottor Donegani, buona giornata. Grazie, buona domenica. Buona giornata e buona domenica. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, ma io vi dico che poi vi porto in mezzo ai prati. Sì, sì, sì, sì, sì. A tra poco. Vi hanno detto che non si sarebbe ripartiti, che sareste rimasti senza calcio e sport chissà per quanti mesi, che era tutto finito, chiuso, cancellato. E invece no. Radio 24 vive insieme a voi questa calda e lunga estate di sport. Tutte le domeniche, in diretta, tutti convocati weekend. Il programma che vi racconta cosa sta succedendo, ascolta la vostra opinione e vi farà vivere in prima persona la volata per Scudetto, Champions League, Mondiale di Formula 1 e tutti i grandi eventi che riprendono. Un'estate senza limiti. Giovanni Capuano, Carlo Genta e Pierluigi Pardo vi aspettano tutte le domeniche, rigorosamente in diretta dalle 17 alle 19 su Radio 24. La bufala in tavola. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè. L'insalatina la portiamo noi, io e Franco Lodini, l'uomo che sussurra le erbe. Franco! Ciao, ciao Nico. Ma ciao, bello. Buona domenica a te e a tutti i nostri radio raccoglitori. Radio raccoglitori, tutti uniti perché l'insalata noi la prepariamo con le erbe che andiamo a raccogliere sui prati. Ma Franco, ti volevo dire che adesso, considerata la stagione, devo chiamarti l'uomo che sussurra i fiori, perché siamo più che erbe, vediamo fiori. È vero, è vero. Oggi è anche il primo giorno d'estate, il 21 di giugno. Fantastico. Sì, sì, ci sono tantissimi fiori, è bellissimo per chi ha potuto lasciare la chiusura totale e andare in giro per i campi, per i boschi, per i prati e trovare tutti questi bellissimi fiori, è stata una bella sorpresa. Senti, prevale il giallo? Sì. Il giallo è uno dei colori più, insieme all'azzurro, insieme al rosso, è uno dei colori che sono più preferiti dalla natura e soprattutto in questo periodo c'è il tarassaco che ha i fiori gialli. Poi il tarassaco è un fiore, detto anche soffione, piscialletto. Perché ha proprietà diuretiche. Diuretico, esatto. Sì. Un po' amarognolo e ci vuole, nella nostra insalatina di oggi lo mettiamo. Ci sono ci anche sta. Le foglie ottime da usare, appunto, è una delle poche che si trova tutto l'anno, quindi è ottimo. E dicevo, il tarassaco in questo periodo lui fa le fioriture a ondate, cioè tutti insieme fioriscono nel prato. E quindi è bellissimo trovare questi fiori gialli. E sai una curiosità, si possono usare, i fiori non si usano per decorare le insalate, non sono tanto buoni, però no. Si possono usare per fare un miele finto perché lo facciamo noi uomini e non lo fanno le api. Dai, come si fa? Guarda, è semplicissimo, si raccolgono tanti boccioli con questi fiori gialli bellissimi, se ne raccolgono una bella quantità abbondante, poi si mettono nell'acqua con il limone, e fatti bollire si setacciano, verrà fuori un liquido giallo, ma è un po' vischioso giallo, sì. Al quale si aggiunge semplicemente uno sciroppo di zucchero che si può comprare o si può fare anche da noi, ed ecco belle fatto il miele di tarassaco, sembra proprio miele anche se non lo è in effetti, però è un buon dolcificante ed è carino, insomma. Sarà buono, ma me ne fai avere un vasetto prima o poi? Perché no? Senti, ma in questo... Aspetto la prima ondata. Aspettiamo l'onda. Senti, aspettiamo Franco, l'onda. Ma questa specie di miele ha le stesse proprietà del tarassaco, quindi... Sì, sì, certo, certo, è un'erba che serve per tante cose, soprattutto... È una farmacia, è ricco di proteine, carboidrati, sali minerali, vitamine e quindi è perfetto per depurarsi. Per depurarsi. Sì. Senti Franco, però abbiamo parlato dei fiori, questo è anche il tempo della melissa. Sì, la melissa è un'erba bellissima profumatissima, addirittura richiama un po' il limone, no? Si chiama anche in inglese si chiama lemon balm, balsamo del limone, perché è veramente profumata ed è ottima per una volta fatta seccare. Io la faccio sempre seccare, in questo periodo ne raccolgo tanta perché ce n'è moltissima, e si fa seccare e serve per fare le tisane d'inverno. Senti, ma è vero che attira molto le api, che sono golose proprio, sì, del nettare della... il nome stesso che proprio deriva dal greco, che vuol dire miele. Nel tuo libro, ricordiamo il titolo del tuo libro perché poi gli ascoltatori me lo chiedono. Allora, il mio libro riguarda proprio le erbe selvatiche, questo è il titolo, Erbe selvatiche, ricerca, riconoscimento e raccolta del gruppo Giunti. Perché nel tuo libro tu ricordi che tua nonna la usava per lenire il mal di denti. Sì, aveva questa acqua di melissa, che era un prodotto tipico dei Carmelitani Scalzi di Venezia. E loro usavano una varietà che era turca, però è sempre melissa. E lei, mi ricordo, per lenire quando avevo il mal di denti, no? I denti cariati, mi metteva in bocca un cotone, un pezzettino di cotone imbevuto di questa essenza di melissa sul dente malato. E ti giuro che funzionava, mi passava il dolore. Vedi? Senti, però incredibile. Ma anche ha numerose proprietà, tu l'hai anticipato, ma addirittura stimola l'appetito. Esatto, sì. Ecco, bisogna saperlo, bisogna saperlo. Sì, poi sai, c'era un filosofo arabo che diceva, Avicenna, no? Famoso filosofo arabo, diceva la melissa dispone la mente e il cuore all'allegria, quindi meglio di così. Fantastico, questa erba ci piace. Senti, a proposito di erbe, tu parli di erbe selvatiche, vogliamo anche però oggi ricordare le erbe aromatiche di AISM, erbe aromatiche, certo, che aiutano le persone con la sclerosi multipla, ritornano anche quest'anno, è un'iniziativa naturalmente di raccolta fondi e di informazione a sostegno delle persone con sclerosi multipla, che è promossa dall'AISM e anche dall'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Per tutto questo weekend ci sarà la possibilità di prenotare queste erbette al sito dell'AISM, www.aism.it aromatiche. Tra l'altro, Franco, le piante dell'AISM, le piante aromatiche dell'AISM sono la salvia e anche il timo al limone. Ci vuoi descrivere? La salvia la conosciamo tutti. Certo. Tra l'altro è buonissima fritta con una pastellina di farina di ceci. Sei d'accordo? Certamente, sì, buonissima. Qui in Toscana si fa anche fritta, la salvia fritta è un classico. Io la metto anche nella cecina che preparo a casa. Ma questo timo al limone mi sembra interessante. Sì, allora, il timo ce ne sono tantissimi di varietà, di specie di timo in Italia, si dice più di 300. Mm. In ogni caso, questa è una varietà che è stata coltivata, il timo al limone, ma quello selvatico è quello che si trova in natura, che posso trovare anch'io quando vado in giro a cercare le erbe, e che ha delle proprietà balsamiche, antisettiche e antibatteriche. Quindi era importante, perché un tempo, quando non c'erano altri mezzi di conservare la carne, si usava a metterci timo, con spatola di timo, perché aveva queste proprietà e impediva che la carne imputridisse. Senti, Franco, tra i tuoi incontri, là sussurrare a erbe e fiori, che chi hai incontrato? In questo periodo in cui c'era da mantenere le distanze, io me ne andavo lo stesso, perché abito in campagna, me ne andavo per campi, boschi, vigneti, oliveti, e gli incontri ravvicinati li ho fatti solo con animali selvatici. Una volta ho incontrato persino un cinghiale, poverino, il quale mi ha guardato, ha visto che non avevo la mascherina e è scappato subito, aveva paura di essere contagiato. Grazie Franco per essere stato Figurati. Con noi. Buona domenica e buona raccolta a tutti. Ciao. Buona domenica a voi. Allora, la bufala in tavola termina qui. Abbiamo Roberta Frisani in regia, alla parte tecnica Laura Vanossi, in assistenza in redazione. Io vi do appuntamento come sempre domani alle 6:15 per iniziare insieme la settimana. Buona giornata da Nico.